Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi ripartiamo dalla richiesta del governo italiano di escludere il suo territorio dalla coltivazione degli organismi geneticamente modificati, richiesta presentata ieri a Bruxelles. Ci racconta tutto Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea, secondo cui i paesi che hanno presentato questo tipo di richiesta sono al momento 15. Sì, è arrivata oggi la richiesta italiana, il 15° paese che richiede godere di questa opzione di non coltivare prodotti OGM anche se autorizzati dall'Agenzia Alimentare Europea, che quindi sebbene a livello europeo si sia comprovato che non sono dannosi per la salute o per l'ambiente, però questa nuova legislazione, proprio perché gli OGM sono appunto, come si diceva, un argomento che divide molto gli europei, si è lasciato agli stati la possibilità di decidere di vietare la coltivazione sul proprio territorio. L'Italia, come questi altri 14 paesi, anche se due per parte del territorio, perché la Gran Bretagna solo per Scozia, Galles e Nord Irlanda, il Belgio solo per la Vallonia, hanno deciso di usare questo sistema attraverso il quale la Commissione ora trasmetterà alle società produttrici queste richieste, e le società avranno 30 giorni, queste società come Monsanto, Pioneer, che producono gli OGM, per dare il proprio assenso. Roadshow della cooperazione transfrontaliera, l'iniziativa organizzata dalla Commissione Europea in occasione del 25° anniversario di Interreg. Vittoria Agliata di Villafranca, direttore responsabile per il rafforzamento delle capacità amministrative, ci racconta il progetto e la tappa di Gorizia, quarta di 11 tappe lungo appunto i confini dell'Unione Europea. Proprio adesso siamo alla frontiera tra la Slovenia e l'Italia e ci sono dei problemi. Facevo un esempio della sanità, ecco, ospedali, perché non raggiungere una cooperazione in modo da poter sfruttare appieno l'effetto frontiera e mettere in comune le strutture sanitarie. Scuola, la stessa cosa, mi raccontavano che esistono moltissime famiglie italiane adesso che per questioni di comodità mandano i bambini alle scuole in Slovenia, scuola italiana, e si sono dovuti risolvere problemi di trasporto. I bambini sloveni avevano diritto al trasporto gratuito, gli italiani no, perché andavano a scuola in Slovenia. Il programma Interreg è riuscito a risolvere questa, che è una piccola quotidianità ma estremamente importante. Confine critico invece quello tra l'Ungheria, la Serbia, la Croazia. L'europarlamentare Silvia Costa è reduce da una missione di alcuni parlamentari italiani appunto in quello che lei stessa definisce con preoccupazione il metodo Orban. Abbiamo visitato sia quello che succede al confine fra Ungheria e Austria che al confine con la Croazia. Per quanto riguarda quello con la Serbia, che ormai è chiuso da una rete con filo spinato, come sta avvenendo purtroppo a tempi velocissimi anche con la Croazia, e vorrebbero farlo adesso, l'hanno annunciato anche con la Romania, è stato perché abbiamo fatto la scelta di questi altri due confini. La situazione è molto diversa fra i due, anche se lo spirito è lo stesso, cioè io posso dirle una battuta: il metodo Orban che è il leader ungherese è praticamente nazionalista, è quello di fare in modo che i profughi e le persone che arrivano al confine con l'Ungheria siano di fatto dirottati, loro li prendono con vecchi autobus o con treni, li portano direttamente al confine con l'Austria e c'è uno scaricabarile, ma in realtà fanno di tutto per scoraggiare la risposta, e alla fine le persone se ne vanno perché tanto non le sono accettate. Le penso un dato: su 170.000 circa richieste inizialmente da gennaio, che avevano avuto quando c'è stata la grande ondata di asilo, sono state date 330, gli altri sono tutti in attesa, anzi mi dicono che ormai sono andati tutti via o hanno fatto in modo che se ne andassero. E con questo è tutto per il nostro appuntamento, vi ricordo soltanto domani mattina l'ultimo appuntamento del la nostra serie lungo i confini esterni dell'Unione Europea, dunque l'appuntamento con gli Euro Reportage, e per quanto riguarda Europa 24 vi do appuntamento a lunedì. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.